Biblioteche, ultima frontiera. Inchiesta sui presidi culturali nelle periferie. Con la cultura non si mangia. La celebre frase dell'ex ministro Giulio Tremonti, che provocò tanta indignazione, è diventata quasi proverbiale. E ancora oggi, a distanza di qualche anno, viene evocata da operatori culturali per descrivere quanto la cultura venga bistrattata e sottovalutata nel nostro paese. Nel discorso pubblico degli ultimi 20 anni, il ruolo della cultura è stato spesso sostituito dall'intrattenimento e dallo spettacolo. In televisione, ad esempio, la riflessione e l'approfondimento di arti come teatro e letteratura hanno ceduto il passo al varietà, ai talent show e più in generale a molte forme di entertainment. Leggerezza, freschezza e velocità sono concetti che sono stati sponsorizzati e che hanno scalzato concetti come la profondità e la ponderazione. Saltuariamente e in occasione di gravi fenomeni come gli attentati terroristici si è tornati a parlare di cultura, indicandola correttamente come strumento per l'integrazione e rendendola oggetto di provvedimenti governativi una tantum, come il bonus di 500 euro per i neo maggiorenni. Secondo i dati Eurostat del 2016, l'Italia è al penultimo posto in Europa, subito prima della Grecia, per la spesa pubblica in cultura, appena l'1,4% del PIL contro una media dell'Unione Europea del 2,1%. Eppure, siamo un paese con un patrimonio culturale invidiabile a livello mondiale. Nel 2017 abbiamo avuto numerose ricorrenze come il centenario della rivoluzione russa e il quarantennale della rivolta studentesca del 77. Pochi però ricordano che c'è un altro importante anniversario da celebrare, in particolare per la città di Bologna. Mentre i bolscevichi prendevano il potere con l'assalto al Palazzo d'Inverno, a Bologna un mantovano, Francesco Zanardi, diventato il primo sindaco socialista della città, creava le prime biblioteche di quartiere, applicando un programma elettorale che metteva al centro cibo e cultura, come ci spiega Paola Furlan, dirigente dell'archivio comunale di Bologna. Il programma socialista con cui Zanardi si presenta alle elezioni è intitolato proprio pane e alfabeto, quindi queste due parole simboleggiano l'azione del riformismo socialista verso la gestione della città. All'interno appunto di pane e alfabeto, con la parola alfabeto, vengono poi prese molte iniziative, soprattutto per quanto riguarda l'istruzione dei ragazzi e degli adulti, e in questo caso rientrano due iniziative molto importanti: l'apertura delle prime biblioteche rionali, così venivano chiamate, e le iniziative riguardanti le scuole all'aperto. I provvedimenti della giunta Zanardi furono, per molti versi, rivoluzionari e avanguardistici e rispondevano a precise politiche che a loro volta sottendevano una visione del mondo diversa, che stava facendosi strada un po' ovunque in Italia, prima di essere interrotta dal fascismo. Per quanto riguarda le biblioteche, c'è da dire che oltre all'interesse che l'amministrazione aveva nel ampliare l'offerta culturale per i lavoratori, c'era anche l'interesse nel decentrare alcune delle funzioni comunali nei nuovi quartieri che si andavano aprendo oltre le mura della città storica di Bologna, e dove si venivano ad insediare i primi operai, lavoratori urbani provenienti soprattutto dalla campagna. Quindi c'era un doppio significato, sia quello di provvedere ad una gratuità nell'istruzione soprattutto degli adulti, e dall'altra parte questa presenza del comune all'interno di questi nuovi insediamenti urbani. In questo senso il comune rafforzò molto l'identità di appartenenza del cittadino alla gestione proprio dell'ente locale. L'istruzione e la cultura, dunque, erano armi per l'emancipazione di categorie sociali che trovavano espressione e rappresentanza nella giunta di Francesco Zanardi. Le biblioteche erano aperte soprattutto alla sera, quando finiva il turno di lavoro degli operai, fornite di manuali tecnici ma anche di opere significative e classiche, ma soprattutto di quotidiani, ed erano aperte fino alle 10 di sera, proprio per favorire favorire la presenza dei lavoratori all'interno di questi centri. Nei primi del Novecento, molto prima che il concetto facesse breccia a livello nazionale e governativo, Zanardi individuò nelle biblioteche uno strumento sociale e politico, facendo scuola anche per anni a venire. Le novità furono molte, come le biblioteche, che erano embrioni ma che sono rimasti poi embrioni che hanno prodotto il fenomeno delle biblioteche decentrate negli anni del secondo dopoguerra con la giunta Dozza. Mentre a Bologna la cultura era un'avanguardia, cosa succedeva nel resto del paese? Paolo Traniello, docente di bibliografia e biblioteconomia all'Università Roma III, ha studiato la storia delle biblioteche in Italia dall'unificazione ad oggi. C'è stata sì la prima fase unificatrice con la creazione delle due biblioteche nazionali centrali, delle altre biblioteche pubbliche statali, eccetera, e quindi insomma l'appropriazione dello Stato dei beni considerati eredità dello Stato. Quanto al servizio pubblico, così insomma non è aumentato molto rispetto al passato. Poi il periodo giolittiano, con una forte accentuazione del carattere burocratico, il periodo fascista con un dualismo tra le cose dipendenti dalla direzione generale, che sono migliorate abbastanza notevolmente, e quelle invece di carattere di regime, che nell'ottica delle biblioteche popolari, ormai però totalmente fascistizzate, sono rimaste strutture più che altro di propaganda ideologica, non hanno creato nulla di particolarmente importante. La Costituzione ha attribuito questo potere sulle biblioteche di enti locali alle regioni, però le regioni hanno cominciato a funzionare solo nel 72, dopo che sono state attuate nel 70, mentre la Costituzione è del 48. Le regioni hanno in un primo tempo cercato di rilanciare le biblioteche, poi si sono messe anche loro su un piano piuttosto di carattere burocratico, creando molti uffici interni, eccetera, ma poco efficaci sul piano del servizio pubblico. Con la riforma degli enti locali, da cui poi a catena sono discese tanti altri interventi, ma c'è una prima legge insomma di riforma degli enti locali, la responsabilità è cominciata a far capo piuttosto all'ente locale di base, cioè al comune, finanziato da alle regioni, e qui si è avuto un forte cambiamento sul piano degli investimenti, cioè sono arrivati per gli investimenti di biblioteche somme prima inimmaginabili, che hanno creato biblioteche di misura e di struttura molto maggiori che in precedenza. Però sul piano del funzionamento quotidiano gli stanziamenti per acquisti eccetera sono assai pochi, e il modo di funzionare è legato al prestito, all'uso per la lettura in sede e a occasioni di dibattito eccetera. C'è anche chi parla di piazze del sapere. Come ha spiegato il professor Traniello, lo sviluppo delle biblioteche per come le conosciamo oggi è cominciato molto tardi in Italia, negli anni 70, con la creazione delle regioni prima e con gli investimenti comunali poi. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, a Bologna, Miriam Ridolfi era assessora al decentramento e all'istruzione e ha vissuto una delle fasi cruciali dello sviluppo delle biblioteche di quartiere. Le biblioteche sono nate come un vero e proprio presidio nel territorio. Allora c'erano 18 quartieri e in ogni quartiere si volle, da parte dell'amministrazione comunale, fare in modo che ci fossero questi presidi culturali, cioè queste biblioteche nate e intese proprio come un bene di tutti i cittadini, naturalmente con particolare riferimento alle scuole, quindi ai bambini e alle scuole del territorio. Un momento d'oro per le biblioteche bolognesi, che portò allo sviluppo di molte nuove strutture. In quello che adesso si chiama quartiere Navile ci sono tre biblioteche, perché un tempo c'erano tre quartieri, quello di Corticella, quello di Lame e quello della Bolognina. In particolare in quello del Lame la biblioteca era nata senza magari una sede del tutto appropriata, un po' utilizzando i locali di una casa che c'erano qui, e però nel tempo si è contraddistinta per questa sua capacità di lavorare col territorio. Contavano forse più i prestiti tradizionali che allora la biblioteca faceva, invece il rapporto che si era riuscito a instaurare proprio con le scuole e un po' anche con la popolazione di questa zona Lame. La conclusione è stata che proprio per queste sue caratteristiche, questa che si chiamava Biblioteca Lame, soltanto alcuni anni fa è stata intitolata al maestro che le aveva dato vita, al maestro elementare Cesare Malservisi, che le aveva dato vita abitando nella zona proprio qui di Pescarola alle Lame. Era nata per essere il punto di riferimento del territorio. Espressione di una comunità, la nascita di una biblioteca era spesso legata all'impegno e alla determinazione di una persona, una figura di riferimento, come nel caso di Cesare Malservisi e della Biblioteca Lame. Non va dimenticato che Cesare Malservisi suonava e componeva canzoni, era amante del nostro dialetto e riusciva ad essere un punto di riferimento insieme alla moglie e ai suoi tre ragazzi, non soltanto per la scuola dove svolgeva il suo compito di maestro, ma diciamo così proprio nel territorio. C'è una foto che lo ritrae mentre porta un water, perché ci sarebbero stati allora dei problemi a far nascere, nel momento in cui diventava pubblica, no, la biblioteca, perché non era assicurato questo servizio. Allora si lavorava ancora così, adesso non sarebbe più possibile, perché subito ti dicono che hai fatto qualcosa che è fuori dalla legge, ci possono essere dei pericoli. Ma allora, così come si condivideva nelle feste il cibo, ecco, allora non erano così restrittive, si viveva proprio un po' in comunità, no? Per cui bisognava ovviamente rispondere alla legge, ma in fondo bastava tutto sommato riuscire a portare un water e a insediarlo, anche se non si trattava di un bagno con tutti i requisiti. Salvo poche isole felici, però, a livello nazionale il momento di entusiasmo, di progettualità politica e di investimenti sulle biblioteche durò poco, come osserva Rosa Maiello, presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche. Le biblioteche partivano svantaggiate perché la crisi era cominciata già prima nel nostro settore. Gli anni d'oro in cui sembrava che appunto si stesse sviluppando una sensibilità diffusa e forme di investimento politico progettuale sulle biblioteche sono stati gli anni 70. Già a partire dagli anni 80 è cominciato il vento del disinvestimento in generale sulle politiche di welfare, che però si sono abbattute per le biblioteche in una realtà che era in quella fase in costruzione. E quindi è successo che in alcuni territori, per effetto di circostanze favorevoli, ma anche di persone che sono state lungimiranti, non soltanto dei decisori politici, ma anche di persone che sono state capaci di individuare gli interlocutori e gli alleati giusti per promuovere l'allestimento e lo sviluppo del servizio bibliotecario, dove poi è stato possibile consolidare e radicare delle realtà bibliotecarie efficaci. La caduta del muro di Berlino e i successivi anni 90 hanno visto il trionfo del capitalismo sul comunismo. Se il disinvestimento verso le biblioteche era già cominciato negli anni 80, nel decennio successivo sono i privati, per mano di una direttiva europea, a presentare il conto a beni comuni come le biblioteche. Il servizio gratuito di prestito di libri comincia a infastidire la corsa al profitto e si diffonde il mito secondo cui le biblioteche, col loro modello e la loro organizzazione, sottraggono risorse al mercato editoriale. Ma è davvero così? L'economista Chiara Bernardi ha studiato il tema e i suoi risultati sono contenuti nel libro Le biblioteche e il mercato del libro, analisi di settore e prospettive di sviluppo. Una direttiva europea, la 92-100 CE, era proprio volta all'armonizzazione del diritto d'autore e imponeva che fosse riconosciuta una remunerazione derivata dal prestito dei libri, ovvero dall'attività che svolgono le biblioteche. Dunque è come se implicitamente si assumeva che ci fosse una sorta di processo di sostituzione tra acquisto e prestito, e questo derivava un po' dall'osservazione del processo di sostituzione che era avvenuto nel settore dell'home video. Ho cercato di analizzare questo aspetto e proprio da un economista si mettono a confronto le due modalità acquisto e prestito per capire se esiste o meno questo processo di sostituzione. Per analizzarlo si prende in considerazione il costo vivo che si sostiene per acquisto e in caso del prestito non c'è un costo vivo, il tempo che comunque in un'ottica economica rappresenta comunque un costo per il cliente o comunque l'utente, perché è un costo opportunità, perché quel tempo può essere utilizzato per svolgere altre attività, in generale le condizioni anche offerte da librerie e biblioteche e la capacità di librerie e biblioteche di soddisfare le richieste dei lettori in situazioni diverse, ovvero se cerco un libro specifico, un libro datato, oppure se devo scegliere scegliere quale libro leggere, perché non lo so a priori, oltre poi ai bisogni che possono essere soddisfatti attraverso l'acquisto o il prestito. Guardando tutti questi aspetti, la sostituzione non è proprio così elevata come si può pensare in prima istanza. Quello delle biblioteche come entità che sottraggono risorse al mercato, dunque, era un luogo comune. Ma come facciamo a dirlo? Pensiamo soltanto ai bisogni soddisfatti. Si acquista o si prende a prestito un libro perché si pensa in prima istanza che lo si voglia leggere. Però nell'acquisto si soddisfano anche un po' altri bisogni, cioè quello di possedere il bene, ma anche quello di utilizzarlo interagendo con altri. Dato che lo posseggo, lo posso prestare oppure lo posso anche regalare. Una buona parte degli acquisti dei libri è volta proprio a poi effettuare un regalo a terzi. E poi, dato che l'ho acquistato, posso conservarlo nel tempo. Prendere a prestito invece, certo, lo posso leggere, ma posso anche consultare comodamente più testi per poi scegliere se eventualmente leggere o meno un testo, visto che non ho sostenuto perlomeno un costo vivo. Però, bene o male, una biblioteca mi chiede devo recarmi in biblioteca per poterlo prendere a prestito e soprattutto mi devo recare in biblioteca per poterlo restituire rispettando un po' i tempi che impone la biblioteca. Data le caratteristiche di una biblioteca, mi consente più facilmente rispetto invece al mercato del libro di recuperare testi non attualmente in commercio o fuori produzione. Però una biblioteca non facilita la scelta di cosa leggere, perché non c'è un layout specificatamente pensato a questo scopo. Invece in una libreria questo è proprio un elemento fondamentale, perché la finalità è la vendita. In realtà le biblioteche aiutano il mercato editoriale e lo facevano già anche senza che fossero costrette a pagare gli editori. Bisogna considerare che le biblioteche, che per costituire il loro patrimonio, acquistano libri e sono responsabili ogni anno dell'acquisto di 7 milioni di volumi. L'Italia, rispetto proprio alla direttiva che ho citato all'inizio, aveva inizialmente stabilito una deroga per le biblioteche, andando a riconoscere il ruolo che svolgono per favorire lo sviluppo del settore culturale. Però è stata poi successivamente condannata per il mancato recepimento della direttiva. È stato inizialmente costituito un fondo di 3 milioni di euro, inizialmente a carico dello Stato e in parte in carico alle regioni, per andare a remunerare gli editori. Attualmente le biblioteche remunerano gli editori per i prestiti che effettuano. Dunque, pur non essendoci in realtà un effetto di sostituzione, le biblioteche comunque riconoscono agli editori, proprio perché è imposto da questa direttiva europea, una piccola remunerazione. Quali sono i punti di forza delle biblioteche che possono aiutare il mercato culturale? Sicuramente le biblioteche, attraverso sia l'attività di prestito ma anche attraverso l'organizzazione di iniziative ed eventi, cercano di stimolare, diffondere, consolidare il piacere della lettura nei loro utenti. Bisogna considerare che stiamo parlando di un consumo di carattere culturale. La domanda culturale, a differenza della domanda di altri beni e servizi, ha meccanismi di funzionamento diversi. Vi è proprio un filone specifico dell'economia che studia il settore culturale, e nell'economia della cultura si sottolinea che la domanda di cultura si va sul principio dell'utilità marginale crescente, a differenza di altri beni caratterizzati invece da utilità marginale decrescente. Cosa significa? Il primo consumo culturale ha un basso valore, perché non ho gli strumenti per poterlo apprezzare. I consumi successivi hanno via via maggior valore. Per apprezzare un consumo culturale devo aver accumulato una sorta di capitale culturale che mi permette di avere maggiori strumenti, maggior consapevolezza per apprezzare ciò che sto consumando. E questo spiega perché l'affermazione dei consumi culturali è un processo lento, perché è lento questo processo di accumulazione del capitale culturale, una sorta di processo di apprendimento. Se la cultura ha bisogno di essere coltivata, tutti gli attori che lavorano in questo senso creano un beneficio anche per gli attori economici che fanno profitto dai consumi di carattere culturale. E hanno una capillarità molto elevata, perché le librerie hanno bisogno di un bacino di utenza ampio per potersi sostenere dal punto di vista economico. Dunque non sono presenti in piccoli centri o in centri dove ci sia comunque in aree comunque con una bassa densità di carattere abitativo. Dunque sono molto capillari e possono dunque contribuire a coltivare la lettura in piccoli centri che non sono appunto serviti adeguatamente dalla distribuzione. Thank you.